dolce affetto, di tu gli tu gli tu intorno al cor. Cara sposa, or nel mio petto, cara sposa, or nel mio petto, va scherzando un dolce, dolce affetto, lieto, lieto intorno al cor. Un dolce, dolce affetto, lieto, lieto intorno al cor. Quale scherza sussurra, nuvol d'ab intorno al fior. Quale scherza sussurra,